qualcuno qua che cucina. Sì, avanti, c'è qualcuno sul dirti. Oia, c'è qualcuno sul dirti. Mi pare che mi è seduto tutto qua e fa sotto. Ma parli, ma parlo, faccia la puttana. E non c'è mai nessuno qua. Non ne ho voglia, ho fa roba da fare. Ma che vuoi che dica? Ciao Gianfranco, buonasera. Ciao, parli, buonasera. Io ho roba da fare, Gian, io... Cazzo, mi ho dovuto formattare il computer perché mi si è incasinato. Diu? Eia. E allora ho dovuto formattare, non riesco né andare né ad avanti né indietro. Ho preso, ho tornato a mettere il Windows 7 e Windows 10 ce la prende dove non tocca il sole. Ma Windows 7 se riprende più di Windows 10, perché oramai non c'è più supporto, quindi se c'è qualche buco te lo lasciamo aperto. Cosa vuoi che ti dica? Sto scaricando aggiornamenti. Ma tra poco, così come hanno fatto con gli altri, non faranno più. Windows 10 oramai, piano piano, sta prendendo piede, aspetta che sto già un paio d'anni. Se è configurato bene, va bene. Non sono grandi problemi, ecco. Infatti, era velocissimo, confronto a questo era... Sì, perché molta gente non ha capito che deve fare sempre, ci vuole sempre due hard disk, due hard disk. Fare la coppia sull'altro hard disk, quando succede qualcosa, non ci perdi tempo. Ne cancelli uno, lo formatti e ci ributti dentro la coppia sua. Tempo... una mezz'oretta e c'è tutto come prima, nuovo e lucente. Poi ti mettere un altro hard disk con la coppia di Windows 10, cioè averne due, là uno già pronto e ci metti la coppia pulita dentro. Formati se metti la coppia che funziona, là. Sì, infatti. Guarda, io sono tanti anni che ne ho sempre due, addirittura tre di hard disk. Pertanto l'hard disk è un oggetto anche meccanico, abbastanza sollecitato. Dopo qualche anno parte, quindi se c'è dati importanti dentro perdi tutto. E sei nei casini che non viene bene a dirlo. Mentre invece con questo sistema, una volta al mese, si può fare la coppia, ma farla sempre recente con tutti i dati che ci ha messo, e sei tranquillo. Ci sono dei programmi, cioè, io utilizzo quello professionale che si chiama Acronis, tra i migliori che ci sono in giro. Ti fai una coppia disco, ti mette tutto quanto, sistema operativo, fa tutto, proprio una fotografia della disk, pronto all'uso, e sul principale poi se c'è qualche viso che non riesce a togliere te ne freghi, lo riformatti, prendi quello di riserva, ci fai la coppia e torni felice e contento. E lì è quello. Te lo conosco quel programma lì. E l'ultimo dovrebbe essere Acronis 10. Ed è abbastanza efficiente. Se lo metti su quello secondario di hard disk in modo da non occuparti magari la parte primaria o anche su tutte e due, non c'è problema. Vai tranquillo come niente. Io tra l'altro, ma non per il computer, ne ho preso uno proprio la settimana scorsa, mi ha riguardato da un tera della Toshiba, e l'ho preso fuori perché qua non fa comprare. Scontato, mi hanno detto 65 euro, se ho pagato 40. Lo so che qua costano molto. Infatti, quando mi interessa che 20 euro di differenza preferisco mangiarmi io che darli agli altri. Questione gratuita, quindi. Infatti anch'io dovevo fare così, invece non ne ho fatto. Quando vedevo che andava bene, facevo la coppia e via. E come mai non l'hai? Come mai non l'hai ancora fatto? Perché adesso fare, cioè se c'è problemi ad esempio di ADSL che è lenta, se metti una coppia di Windows 10 tradizionale, poi la devi aggiornare, ci perdi ore, poi se ci sono anche tutti i programmi da installare, guai, è un bagno di sangue. Sì, infatti un macello, per mandronia, proprio perché temo quello. Se fa una copia di questi problemi non ce l'hai. Te ne freghi, quando qualcosa succeda, quando ti scoccia, prendi, così ripristini la copia che funzionava, sì. E non devi neanche scaricarti di tutti quegli aggiornamenti che sono per una ora. Sì, esatto. Ma adesso vediamo cosa fare, là. Adesso ripristiniamo questo. Infatti, sono sempre un problema, quando sono sempre un virus, è sempre un macello. Ma dimmi una cosa, Claudio, non so più sentito, che fine ha fatto con questa casa e la finestra occupata? Io a Claudio non l'ho né più visto e né più sentito. Marco ci sta guardando la televisione e non ci sta entrando. Cosa vuoi che dica? Infatti ho detto tra me e me, qui ci butto tutto per sentire il QRM e parlare col muro. Infatti. Non lo so. Però adesso passano mi cazzo dal telefono, perché non è da lui stare così distante, per tanto tempo. Infatti non è da lì, né visto e né sentito più. Ma poi comunque va tutto bene, che sia tranquillo, sono là, perché ultimamente insomma già non senti altro di gente con la chat. Io penso che sia impegnato nella casa nuova, penso, e non abbia tempo. Non mi è capitato neanche di passare in quella zona per vedere se le antenne ci sono ancora. Non manco a me a dire la verità. Sono in tanti che oramai non si sentono più. Tutti con questo caspita di WhatsApp. Sì, infatti, mi entra Giulio, Gianni, quando può, poi Marco si è preso il virus della TV, cosa vuole che dica? Non c'è più entrato. Tieni avanti? Io la guardo molto la TV, però non quella via rete, cioè quella tradizionale, sto guardando sui canali Netflix, vari film sceneggiati, tanto oramai la televisione non senti altro che elezioni, che politici, che questo, che quello, ma ecco. Va bene Natalità, io mi allontano un attimino, comunque sono qua in ascolto. Ok, va bene, ciao Gianfrale, grazie per la chiacchierata. Niente, comunque sono qua, in ascolto in ogni caso, se non rispondo vuol dire che non sono proprio vicino. Hola. Natalino. Oh, yeah, dimmi. Niente da fare. Sto passo a chiamarlo, ma non risponde. E allora è proprio così. Quello magari ha spento il telefono e sta lavorando. Se così non può essere. No, il telefono è acceso, però non risponde. O è lontano dal telefono. Boh. Ci risenterò domani. Evidentemente sì. Sarà lontano dal telefono e non può rispondere. Magari non lo sente. Vabbè, ma è tornato ascolto. Ah, o meglio, mi devo anche allontanare, che sto caricando una cosa, voglio vedere a che punto è. Sì, capo, anch'io sto pasticciando, sto continuando. Va bene, là, buono a quel ricco, anch'io rimango in ascolto, alle prossime. Ok, a dopo. Avanti Lola, buonasera. Lei come va, come va? Sto qui, sto qui. La gara. Oggi sono andato a farmi la visita, mi ha detto una chiara. Minimo. Un minuto di un'idea. Sì, quando non stai alle regole per loro è un casotto e ti sgridano, già non soffia. Cosa ti volevo dire? E domani cosa fai già? Perché questa qui se ne va dalle amiche e mi lascia da solo. Domani sera, domani. No, domani sera. Perché domani sera è la festa delle donne, vanno tutte a casa di vita, ci fanno la cena, capito? Ah, così è. E io tanto ci fanno gli hanno buchi. Cazzo, di tutti noi, tu a che cosa, non c'è problema. È da buttare quando ribare il piatto. Guarda, se c'è Marco, cosa me la sono fatta? Sì, lo so. E vabbè, sarà per un'altra volta. Cosa ti volevo dire? No problema. Capito? Allora, ah, cazzo. Ho dovuto riformattare tutto il computer, mamma mia, che casino, sto scaricando gli aggiornamenti, mi ho messo attorno a Windows 7, mi si è incasinato, roba di virus, Trojan che perché sono entrati. Avevo anche i carpetti, non capisco, eppure sono entrati in a sé, non è riuscito a toglierne uno, tutti gli altri sono riusciti a togliere, uno non c'è riuscito e non potevo andare né avanti né indietro, e quindi ho dovuto, io ho messo Windows 7 adesso, Windows 7 Professional, speriamo che vada bene, però adesso se vuoi consiglio di cosa, adesso prendo un altro link e mi faccio un'altra copia, mi faccio di questo, così se si faccia, non posso altro collegare l'altro al link e le andette. E cosa? C'è stata un'interferenza dall'altra parte? Ha fatto un po' di cose. Parlamentare sul coltello, che oggi sono stati 9 minuti, per le guardate terrestre, infine, quello che siamo in ultimo, quello che sono Paolo Freccia, la messa. Ah, a posto adesso, Ho finito di fare quegli aggiornamenti là, ma quando me li vuoi caricare me li carichezza. Adesso ho roba di hard disk, devo caricarli qui e me costruma un'altra installazione, infatti, è pulita. Palla, palla, palla con muro. Come quel Marco, cazzo, la televisione è sbagliata, non va in trenda a parità. Infatti lo faccio a cambi tutto, mi. Ma che lo dici? Mi sa che ti vedo di più là. Ah, no, ma che sta lo dici? Sì, infatti anch'io farò così. Continuo a perdurare questa situazione, prendo e faccio così. Tanto. Quando c'è il tempo libero la sera non sta riuscendo. Io adesso sono di sera tutta la settimana, oggi ho festeggiato con la sono andato a trasmessa, adesso c'è il 4 l'altro. E adesso se devo andarci perfetto, se no ci vuole del palettino. Io bisogna decidere di avere 790, ma nel pomeriggio ci deve essere. Cosa vuoi che ti dica? Tutte le cose ti piacciono di Polmania e non è che io stavo qui, io oggi ho mangiato una sera e settimana, non ne mangio mai, mangio solo a domenica. Comunque la tarda se sono andato a casa, non è che organizziamo qualcosa, non abbiamo fatto lontano. Sì, andiamo a mangiarci una pizza, qualche cosa. Però se no mi rimango a casa, non c'è problema, mi sistemo qualcosa qua e si riaccantare. Sì, quindi è giusta la sì, la gara andata a faccare dai, che ti ha fatto va. Ma carità, ed ero single, cazzo, convinto, cazzo, ma fuggito, ma... Chi me l'ha fatto fare? Non c'è Juventi in campagna, cazzo, la YouTube, il radio, tutto, antenne, cazzo, vai qua, boom, non lo so, se la prende la pistola e sparare. Ma con tutto è brava, già scappi la mara, già la biglivona. Oh che brava è, non li butto di nulla, la biglivai. Solo che cazzo, molte volte si rompe, già lo sai, si rompe in un modo... Poi cazzo mi manda sempre contro. No, ma non è più telefonino, manco male. Ah, allora vuol dire che ha trovato le compagnie di tutte. No, no, è che gliel'ho detto, non rompermi le palle al telefono per cavolate, che mi dava fastidio. A telefonarmi mi ruba così, buttando. Ma lei è innamorata di voi? Sì, da voi girosa, cazzo, ma io non mi ho dato mai il modo di potersi lamentare su quello, buh. Che ci prendi, mica ricomprendi, è boh. Sì, ma diciamo che lei no, non ha avuto problemi, ma... E in cucina ma potrebbe sentire. Tutti più come siamo ridotti. Sì, lo so. Questo mi è bastato anche dal vanto. Non so se sono su di divorziare o no. Sì, già io sono un po' salitrangi già. Ma chi è da non usare con questa di strano? Ma ora sta ci fai quando fanno loro a mangiare la pasta e noi invece sono fatto una piombra, ma sai che c'è una pulizia. Quindi si nutrivi? Sì, no, che in cucina sto telefonando. Sempre un di più telefono in mano, cazzo, mamma mia. io il telefono a casa lo uso solo per telefonare. Scusa, mi piace che ci metti a ecco, no. Sì, la stupida foto, sbaglierò bene. Sì, di fronte. Tu prima venire a un uso di questo, vai sì. Guarda, mia moglie ci stava 30 anni, no, e non è mai successo da cambio di soldi, questi bastoni, guarda, la vita è impossibile. Adesso mi stavo facendo il stesso, sono andato in chi di cazzo e la giuccato la iata, ma compreso, ti dico non vedi. Si carrava poco uguale. E dice perché non vedeva la televisione, ma se tu non vedevi mai in casa, quando io sono caro baracchino, a chi io all'ultimo sono come a niente, ero baracchino e si batte. Come ti cazzo contro di si batte la televisione, ragazzi? E lui? Si è cagliato un uso, perché io non so. E andava a far fare da cazzo lui. Attenzione, in casa non vi ma si è ricatto, adesso non si occupi di un piede. E lui allora si è alzato, e lui c'è un po', attenzione. Perché lui che ha minacciato, mia moglie di morte ha minacciato, e l'ha sentito un'altra signora, c'ha anche testimoni, io l'ho denuncio, l'ho bigiannito. Sì, attento. Che macco, se uno è macco, ha ragione secondo te. Se continua a rompere le balle, a fare dispetti e questo non ha fatto più niente un dispetto, la rivista è finita. Ma lui è qui. Ma che ha paura di avvisa mio compagno? E da lui... Ma non si conoscono mai. E da lui era la vicenda di Giuseppe. Io è venuto per distruggerlo, infatti gli ho detto no, a poco, la Giuseppe. Ci sono andato a farvi da Dio. Ah, ma qualsiasi cosa a farmi risalire. No, un altro, uno che picchia per mestiere. Ma io non mi devo esporre, già lo sai per quale motivo. Sarò là che ha giambato di lei. Ti vedi ma ti vedi. Ma c'è una cosa che si è non è costruito su questo. Che lì si sta andando, lì me lo dice tu, la persona separate, anziani che hanno bisogno, non so. Io la dice tu là. E già l'ho letto anch'io, a single anche, quest'anno là. E bisogna che mi informi a vedere. E vediamo poi se riesco a beccare qualcosa. Solo che a me non me ne daranno perché prendo la pensione di invalidità. Mi stanno telefonando per te. Uno si pare la centralina di Giardino. Come si chiama? No, Fini si chiama, non c'è più il telefono. Si chiama Fini, tutto qua. Fini? Sei un crumun disgraziato delinquente assassino, eh? Ma chi stai vedendo a Bonoli? Si mi guarda, va là a Bonoli. A Bonoli si guarda invece di entrare in mezzo alla gente, ai cristiani, agli sumari arruccati. Non mi ha preso in parte, come? E manco Giulio lo vuol dire. Ha detto maladucati, mi dice, è che lui, non è Paola. Non è rispetto a lui. mia moglie che mi stava facendo un cutici. Cosa ti stava facendo? Un cutici. Ah, ma te l'ho messo un cutici. Tu sei troppo malizioso, hanno ragione a chiamarti Gianni il Caldo. Tu stava dicendo se mangiavo delle cose che voglio, che stanno preparando loro, oh, cosa ne so. Vai tu, ubriacone tragico. Vabbè. Tanto glielo dico alla 25 di Luca che lui è un briacone tragico e lo faccio parlare con Muro. E fai così. Avanti già. E anch'io faccio così, se non c'è nessuno che parla qua me ne vado là. Io entro, magari c'è Giulio, Gio Maria, entro per salutarli, capito? Ci abbiamo quattro giaceri e basta lassù. Invece no, fino a un canale di morti e diventati. Io ho trovato una persona, sì, perché io lo sto sicuramente impegnato nella casa nuova lì, e non ha tempo di entrare a parlare qua. No, penso che stia lavorando, perché questa casa è in costruzione e deve essere che la devono finire e poi si trasferisce. Come? E verrà, non ce ne ha più, l'ha tolto. Cosa ha tolto? Non ti ho capito già. Non ti ho capito perché c'è mia moglie che sta parlando al telefono. Sta gridando al telefono, non sta parlando. Adesso che verrà, non mi sa che l'ha tolto. Le doveva togliere, ma la 27 la lasciava, anche l'antenna della 27 lasciava. Capito? Finché non si trasferiva. Poi il matto lo sta comprando, si sta comprando. Lo chiama anche la scuola. Ma dai, un peperone e una melanzana ripiena. Sì, è vero. A mangiare adesso. Domani farà. Tu mani a cuginetti, io sei di Barigiano, se non andiamo a mangiare la pizza là, alla faccia vostra. Io voglio festeggiare la donna. E festeggia gli sussi mareti bianchi. E mangiamo le sussi e le ripieni alla faccia. E manco baricastri mi affitti. Voglio di mangiare tutto gli sussi mareti bianchi. E ci ubriachiamo. Mi sentita lei. E ci ubriachiamo anche. Bene, mi imbriaca, chi già entri. Sto saluto si cala di questo grumino. Come già? E hanno buone sospettive. E lo sai che le donne quando sono assieme saranno i pezzi, hanno i pezzi di casino, più dell'uomini. Ah! Ma sono due donne qua, non sai dire che l'hai messo. Ah no. Ah va, domani esci, se già in bocca fa vita a mari di noi. Tutte donne, nove donne, tutte dentro casa di una mia amica. A fa casino, diciamo mentre li vado a venire a casa. E poi ci sono anche i nigeriani. Senza compagnia. Ah, questi è. Io vengo col fucile, così ne faccio fuori un po'. Che c'è la scusa. Non si lascia perdere, infatti già non è mollato. Già mi ha detto, lascia perdere il giuliano, già vengo io che faccio il gallo nel pollaio. No, adesso interessano gli italiani che fanno la bella altri. Oh, e già ne ha altri, tanto di altri già, come trottata. Ah, intesa, sei troppo pallido, no? Gli italiani. Gli italiani. Anche gli italiani, mi fanno un po' di cazzato in faccia, o no, i mamutoni sono di tarifa, ne devo proprio uniti. L'idea che è uniti di Gigi. Ma a me che bello ce ne hai? Oh, che sono tutte racchie, sto. Allora, mi sono trovato lì in un locale, la scorsa la riconosco. No, vabbè, facciamo. Ah, faccia di concetta. Infatti. Se domani si libera, guardiamo uno squillo e ci mettiamo in giro, ci mettiamo. Ma no, andiamo nel locale dove ci sono le donne, no? E così almeno prendiamo il giro. Vai, ci chiudimi, ci entriamo in un'occa, non ci sono bene, è meglio. È meglio, andare in qualche pizzeria tranquilla. Io so che ci fanno discutere. Sì, ma dove ci sono tutte donne è meglio non entrarci perché ti fanno affetto. Allora, si coalizzano e fanno... Invece bisogna vedere se ci sono anche maschi e così non rompono le scatole. Marco come sta già? Marco... Poveraccio, ci sta e ci dà sicurezza, non c'è. E anche io sono un cacciatore. Sì, l'ho fatto per trovare il cacciatore. Sono stato per distratto, adesso sai che non ho più fatto. Forse da grandezza, non è più qua. Sì, la verità, quando mi faccio la mano, la sera l'ho chiamato la sua, la taglia a fare. La verità, adesso mi sono stato per distratto, non è più la luce, non è più la luce, non è più la luce, non è più la luce, non è più la luce, non è più la luce. La roba che ci sono stati, che mi piega, ci ho fatto questo, adesso mi trovo in via per studiare il romano, mi sembra da l'anca, una e a me pure quando sono un cagliuto, attiramente quando sono un cagliuto, ma io mi ho un cadruppo e non mi ridini l'anca, e infatti poi ne ho, dopo ci ho avuto il posto, mi scrive, vedi che sono io. Sono caduto male lì, scendendo dal collocamento e mi ha fatto la matta su cosa. Perché non è caduta su cosa? Tipo ha messo il piede male, che va il male, no? Non ho capito che io ho toccato il femore come ho battuto, però io non sono caduto da una scalinata, io sono caduto dal marciapiede. No, fortunatamente, però ero in baculo io, mi guarda che me l'ho vista brutta veramente. E infatti a tutti noi a trappare. E infatti, ma di strappare dentro. Grazie. che vada tutto bene, questo tu tornati aggiornamenti qua per dire il cazzo. Non è possibile, no. E la nella città a me un aggiornamento, non so, va bene. Siamo qua. Dovrebbero essere le 7:05. Occhio già, che ci sono bocconi in tutta la città. Guarda che non prenda niente da terra il cane, per carità. Purtroppo c'è da stare attenti. A noi il gatto l'ha messo un boccone e si era ammazzata al di là. Diglielo che è tutto qui. Glielo già detto del cane. Se ti hanno avvertito il pastore, fate il succhio, attenzione che non prenda niente da terra, glielo. Se no fate la fine di vita o la minetta. Curigiosi, curigosi, cullati, con gli aghi è peggio, perché con gli aghi vi buca lo stomaco e crepano, non vi salvi. A noi si mi viene da la rete, si deve curare un pendia che cosa, che vedrai cosa li porti. Lo so, però si dà che bene, ma non si dà che meglio. Fai bene già, va. Segnatele adesso. Dopo, non ti dico. Quelle di me. Già. Io me ne vado a cena, ci sentiamo un altro momento che teniamo. E roba, gli ho dato roba all'amica, della sera preparata da domani. Se non mi fai caffè lo picchio. Ciao, ciao già, buon proseguo e grazie per la chiacchierata, le frutti. Noi andiamo a fare. Vai, ci ubriri a virus.